Radio 24 Reportage. Ponti che crollano, strade insicure. Viaggio lungo una rete malconcia di Andrea Ferro. L'autostrada è ancora lunga, chi lo sa se arriverò. Nell'originalità propria di un territorio bellissimo ed irregolare, allungato su piani inclinati tra discese ardite e risalite fino a lambire il mare, la rete stradale italiana è la testimonianza di una complessità necessaria. È un sistema di infrastrutture che si intersecano per provare a collegare ogni angolo del paese, bucando le montagne o rimanendo sospesi come lunghe passerelle poggiate su spigoli in bilico. La spina dorsale della nostra rete stradale fu concepita tra gli anni 60 e 70, quindi sull'onda lunga del boom economico che tra i suoi effetti motorizzò il paese. Strade, autostrade, viadotti, tangenziali, raccordi, bretelle, una geografia fisica e politica mutata dal cemento nell'irrequietezza di un'epoca di sviluppo e di sogni da realizzare. Così oggi l'essenza di quell'impianto infrastrutturale svela la sua età, che in altre epoche previdenziali si sarebbe definita ormai da pensione. Il ciclo di vita di un'infrastruttura stradale non è certo omologabile al genere umano, però inesorabilmente il tempo lascia i suoi segni ovunque e impone cure e attenzioni, tanto più se il cambio generazionale è molto limitato e non sempre garanzia di affidabilità. Ma si sa, a certe latitudini in genere la prevenzione è materia teorica e non pratica, e così succede che ci si accorga della realtà solo quando questa palesa il suo stato, richiamando prepotentemente l'attenzione. In meno di 2 anni e mezzo, da sud a nord, sono crollati 6 viadotti stradali che, nella drammatica eloquenza degli episodi, via via sono assurti a simbolo di un'emergenza infrastrutturale più generale. L'ultimo ponte a venir giù ad aprile a Fossano, il terzo in meno di 6 mesi. Ma perché questa sequela di crolli? Lo abbiamo chiesto al professor Antonio Brencic, docente di tecnica delle costruzioni all'Università di Genova. Diciamo che ultimamente ci sono stati 3 crolli da distanza ravvicinata, sono 3 crolli completamente diversi, con cause da in via di accertamento ma indiscutibilmente diversi. Si commette talvolta l'errore di pensare che certi eventi che succedono in Italia siano tipicamente italiani. In realtà non è così. Il ponte è una struttura particolare, una struttura molto impegnativa, sia nella progettazione che nella realizzazione, molto più di un edificio, molto di più di un muro, molto più di altre strutture più semplici, per cui sono quelli che più manifestano le conseguenze di una cattiva progettazione, una cattiva esecuzione. E questo non solo in Italia, in tutto il mondo. Crollano ponti in paesi civilissimi. Negli Stati Uniti ne crollano 2 all'anno. Gli Stati Uniti sono quelli che hanno avuto i crolli dei ponti con il maggior numero di morti. Ma crollano ponti anche in Norvegia, anche in Germania, che noi prendiamo come esempio di paese tecnologicamente all'avanguardia. Quindi, al di là che ogni episodio è una storia a sé stante, talvolta pure con un carico di vittime, in seguito ai ponti crollati negli ultimi 2 anni e mezzo 4 persone hanno perso la vita, dalle parole del professor Antonio Brencic emerge una considerazione a suo modo poco rassicurante. In alcuni casi i viadotti hanno ceduto per errori di progettazione, e in effetti è proprio quello che starebbe emergendo dalle inchieste delle procure in almeno 2 casi. Ma com'è possibile? Sentiamo ancora Brencic. I ponti ferroviari non crollano, non abbiamo notizie di un ponte ferroviario crollato, nonostante siano i più anziani e nonostante anche le ferrovie abbiano dei problemi di bilancio. Allora, forse il problema non è la disponibilità economica né l'età dei ponti, forse è il quadro tecnico-ingegneristico in cui viene svolta la manutenzione. Le ferrovie italiane hanno da lungo tempo e hanno conservato una grande capacità tecnica. Gli uffici tecnici delle ferrovie sono in grado di interloquire in modo e di guidare i progettisti esterni. Altri enti gestori di infrastrutture non sono in queste condizioni. A me è capitato di esaminare tutte le carte di un appalto autostradale. Lì ho visto una grandissima attenzione a una grande precisione formale, una grande precisione agli aspetti economici e contabili dell'appalto, ma nessuna attenzione agli aspetti tecnici, che poi hanno provocato dei guasti di cui mi sono occupato. Per cui non sempre il contesto tecnico riesce, inondato da procedure, da norme, riesce a considerare l'aspetto tecnico, l'aspetto vero del problema, come un aspetto, non dico il principale, ma almeno pari grado con altri. Se, come abbiamo sentito, l'analisi delle cause dei crolli dei ponti investe valutazioni molto ampie che possono riguardare anche le tecniche stesse di progettazione e realizzazione, la manutenzione gioca comunque un ruolo importante nella complessità e nella tipicità della nostra rete stradale e infrastrutturale, tanto più se, come dicevamo, lo scorrere del tempo naturalmente imprime i suoi effetti. ANAS gestisce 26.000 chilometri di strade di varia classificazione, statali, autostrade, tangenziali, una rete con 11.000 ponti e 1.300 gallerie. Di fronte alla Commissione Ambiente della Camera, il presidente Gianni Vittorio Armani ha ribadito e spiegato la scelta strategica di ANAS, cioè puntare alla salvaguardia dell'esistente, rivolgendovi le stesse attenzioni e praticamente gli stessi quattrini che sono destinati alle nuove opere. Ascoltiamolo. ANAS ha bandito 1 miliardo e 600 milioni di euro in questo anno e mezzo, quindi dall'avvio del nuovo codice appalti, per la manutenzione. E con un piano di interventi finanziato 2016-2020 che prevede il 46% degli investimenti per 11 miliardi di euro focalizzato sulla manutenzione stessa. È stato calcolato che in Italia la rete stradale si estende per 500.000 di chilometri, per buona parte gestita dai comuni, le cui casse in genere non sono sufficienti per garantire i servizi essenziali, figurati la manutenzione delle strade. Oppure, pur avendo le risorse, alcuni comuni non possono investirle per i vincoli europei. Il risultato è che la rete stradale locale è quella messa decisamente peggio. Non è solo una questione di ponti, selciati dissestati o a gruviera, frane incombenti, segnaletica inesistente, barriere di protezione inesistenti pure quelle. Il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, è il delegato per i lavori pubblici di ANCI, l'associazione dei comuni. Mancano assolutamente le risorse, alcune volte mancano risorse anche, per esempio, a seguito del riordino delle province con la legge del Rio, anche riguardo alle strade provinciali, quindi c'è una sorta di impoverimento adesso riguardo a queste infrastrutture, con la perdita di sicurezza di molte strade che sono poi soprattutto strade che servono anche territori turistici, anche nel centro-sud Italia, quindi questa mancanza di risorse diventa una perdita anche in infrastrutture. E noi chiediamo sicuramente molte risorse in più che possano riguardare soprattutto la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ma anche di tutte le situazioni che adesso provocano situazioni di pericolo, come il dissesto, la vulnerabilità degli edifici. A fotografare con la nitidezza dei numeri quanto ci ha appena detto per conto di ANCI il sindaco di Cosenza Mario Chiuto è la statistica resa nota nei mesi scorsi da SITEB, l'associazione dei costruttori di strade. Negli ultimi 10 anni in Italia il consumo di bitume si è dimezzato, da 44 a 22 milioni di tonnellate. A proposito di buchi sulle strade, ai suoi primati spesso ma non sempre abbinati alla straordinaria bellezza, Roma può aggiungere anche quello della capitale europea con le strade più malconce, al punto, per abusare della proverbiale ironia capitolina, da diventare quasi un'attrazione, giusto ne mancassero. Luca Montuorio è l'assessore all'urbanistica del Comune di Roma. Abbiamo voluto stanziare oltre 80 milioni di euro in un solo anno, ma soprattutto con una modalità, diciamo, progettuale diversa, cioè guardando a un accordo quadro che rimettesse insieme tutte le modalità di assegnazione degli appalti e dei lavori per il recupero e per il miglioramento dei manti stradali a Roma. Fino ad oggi, negli ultimi anni, si era proceduto con accordi ponte, bandi ponte di durata semestrale, concertazioni con singole imprese. Invece in questo momento noi vogliamo lavorare a un appalto, abbiamo lavorato a un appalto triennale in più lotti con un grande accordo quadro, soprattutto in un'ottica di programmazione, non soltanto di quando si apre un buco doverlo tappare. Strade non curate come si dovrebbe significa strade decisamente più insicure, tanto più per le categorie più deboli, pedoni e motociclisti, cioè le prime vittime della strada. Secondo uno studio internazionale, un incidente su 4 che vede coinvolti appunto pedoni o motociclisti è provocato dallo stato delle infrastrutture. Declinato anche su questo piano, non è casuale il fatto che nel primo semestre del 2016 in autostrada le vittime sono calate del 15%, mentre in città solo del 2%. La sicurezza sicurezza non è solo minata dalle buche, ci sono anche altri elementi che non adeguatamente curati possono favorire gli incidenti, come dicevamo prima. Un discorso particolare riguarda la segnaletica, quella verticale, cioè i cartelli, e quella orizzontale, le strisce. Approfondiamo con Enrico Pagliari, coordinatore dell'area tecnica di ACI. I cartelli possono essere o mancanti oppure possono dare addirittura informazioni sbagliate. Quante volte si percorre una strada con messaggi anche contraddittori, si pensi ai limiti di velocità vecchi lasciati su una strada dove magari successivamente vengono messi dei diversi. Trasferire un'informazione non coerente, sbagliata, o distrarre, perché poi alla fine arriviamo che ti distrae. Certi cartelli, per esempio, sono dei trattati, no? Il codice della strada consiglia di usare pittogrammi e scritture che non superino 4-5 parole, invece certe volte vediamo proprio l'ordinanza del sindaco pubblicata, applicata sulla tabella, che poi non conta niente, perché lì ti devi fermare, scendere e metterti a leggere bene per capire. Anche la segnaletica orizzontale può avere le sue colpe se manca. Pensiamo per esempio alle delimitazioni di corsia mancanti o per scarsa manutenzione, quindi non rifatte. Quelle la notte sono utilissime quando si guida, soprattutto fuori centri urbani.